precisazione del Movimento 5 Stelle è direttamente rivolta, inutile girarsi intorno, a superare quella situazione che ci aveva portato ieri sera a annunciare la querela nei confronti di Grillo, e ne cadono anche i presupposti legali per molti aspetti con questa messa a punto dei 5 Stelle, quindi non ci sarà il corso dell'azione giudiziaria. Al di là del fatto che non volessero davvero riferirsi a questo telegiornale, ma ad altri, resta il tono e la misura, quella delle giurie popolari, che sono da respingere totalmente. In un clima, lo ripeto, non di, a questo punto, non di querele o cose di questo genere, ma di critica molto seria, visto che è un tema che abbiamo a cuore, quello dell'informazione, che è il nostro lavoro di tutti i giorni. 18 e 7 minuti, buonasera ascoltatori, ben ritrovati, buonasera da Alessio Maurizi, ma anche da Miriam Lucchetti, Matteo Ramelli, Claudia Schiattone, questa sera siamo tantissimi, Giorgio De Luca, Pietro Lacorte in regia, 800 24 00 24. Niente, abbiamo scherzato, non sono più nemici. Noi che speravamo in uno scontro ad altissima tensione tra Mentana e Grillo, che andasse avanti chissà quanto, perché appassiona tutti, con due personaggi incredibili a cui non possiamo rinunciare, naturalmente a nessuno dei due, perché per ragioni diverse, ma sono due colonne, per me almeno, io parlo per me personalmente, l'uomo che ha cambiato la politica italiana, il giornalista che coi suoi speciali è diventato ormai un mito, Maratona Mentana. Niente, causa rientrata, è bastata una precisazione di Grillo, lo sapete, che ha augurato al TG della 7 di continuare a fare informazione che sia rispettosa della verità e dei cittadini ancora a lungo. Cioè, sono cambiati completamente i toni. Vabbè, abbiamo scherzato. Sembra di scherzare, però, cari ascoltatori, anche a sentir parlare il ministro dell'Interno Minniti sulla questione dei centri di identificazione ed espulsione. Ma come, non erano chiusi, non erano finiti, non erano falliti? Adesso si ripropongono, si riaprono, saranno diversi, saranno vicini agli aeroporti, fuori dalle città, con pochi posti. Sì, questo in teoria sulla carta. Infatti Minniti dice: non voglio sentir parlare dei vecchi C, è un'altra cosa. E tuttavia devo dire che è difficile pensare che si possa procedere ad un respingimento immediato di una persona irregolare. Non esistono le procedure, è chiaro. Non è che posso firmare un pezzo di carta, perché voi comprenderete che sarebbe un gesto di mera ipocrisia se io dicessi: io firmo un pezzo di carta, dico che la persona è espulsa, ma non so dove è andata a finire. Allora, questo è l'audio di Minniti sul Fatto, anche questo fa cadere le braccia, che lui dice non si possono fare respingimenti. 2.000 su 40.000 l'anno scorso, quindi 2-3 mila effettivamente rimpatriati su 40, oltre 40 mila che erano stati identificati, tra cui anche Amis Amri, il terrorista che poi è stato ammazzato a Sesto San Giovanni e che agitò a Berlino. No, ma sentiamo l'audio, quello proprio in cui dice Minniti: i CIE che propongo adesso non sono come quelli, come i vecchi CIE. Però appunto sembra quasi uno scherzo, un gioco di parole, sembra il gioco dell'oca, siamo ritornati alla casella di alcuni anni fa. Non c'entrano nulla con quello del passato, perché hanno un'altra finalità, non c'entrano con l'accoglienza, non c'entrano con quelli che arrivano e che chiedono asilo, c'entrano con coloro che sono arrivati alla fine di quel percorso e l'esito non è stato positivo. La mia idea in testa è di parlare di piccoli numeri. Io proporrò che ci sia non soltanto una struttura di governance trasparente, ma che ci sia un potere esterno per quanto riguarda le condizioni di vita dentro quei centri, che sono appunto centri nelle quali bisogna sempre mantenere un livello molto alto di dignità della persona. I CIE sono stati praticamente chiusi perché erano falliti, perché non assolvevano al loro ruolo, innanzitutto perché non rispettano i diritti umani, perché sono state fatte gare al ribasso e ci sono condizioni all'interno assolutamente inaccettabili, perché a causa della legge Bossi-Fini siamo il paese in cui si calcola ci siano qualcosa come 435.000 irregolari, tutti quanti clandestini, tutti quanti potenzialmente da espellere, che dovrebbero passare quindi dai CIE. Allora, Saviano, sogno sindaci africani per salvare il mio sud martoriato, ha detto Saviano in uno speciale che è andato in onda qualche sera fa, in cui parlava del sud alla sua maniera, raccontava come la vede lui e ha detto anche questa frase, una frase che naturalmente non poteva passare inosservata agli occhi di qualcuno. Ora io a Salvini mi sta anche simpatico, gli voglio anche bene, però l'uscita poi di Salvini su questa frase e anche di Giorgia Meloni è questa. Saviano dice che sogna sindaci africani, vada a vivere in Africa allora, così esaudisce il suo sogno e quello di diversi italiani. Giorgia Meloni, poi Salvini, sempre su Twitter. Saviano a Rai Storia, sogno sindaci africani per il sud, il sogno, io sogno Saviano in Africa. Allora, cari Salvini e Meloni, io devo dire che vi state comportando da piccoli fascistelli. Eh sì, bisogna dire così, perché scusate, allora, di fronte a Saviano, che magari sarà uno che sta lontano dalla realtà, ha detto una cavolata, è insensibile alle persone che soffrono del contatto con gli immigrati, che si sono impoveriti per questo, tutto quello che volete, però invece di rispondergli sui contenuti, su quello che ha detto, di dire quello che pensate tranquillamente, di fronte a Saviano no, che cosa fate? L'avversario non si combatte, si elimina, si allontana, dite, non molto indirettamente, che sognate che si levi dalle scatole in una piazza pubblica, però lo fate, perché Twitter questo è, non è che state parlando al bar tra amici, tant'è vero che, adesso dice sta esagerando il conduttore, no, perché tra i vostri follower una certa Giulia Muratori scrive: dei coglioni così ce ne sono abbastanza, spero ti facciano fuori, riferito a Saviano. Ora è un po' troppo, no? Spero ti facciano fuori. Sorvoliamo sul fatto che Saviano è sotto scorta, giusto o sbagliato che sia per le minacce che ha ricevuto dalla Camorra. No, ma non possiamo sorvolare, perché questa signora dice proprio questo. Allora, secondo me, nel momento in cui dite questo, Salvini e Meloni, sapete benissimo di scatenare i vostri follower su Twitter, vi state comportando da poveri, piccoli fascistelli. Una cosa, secondo me, è certa, su questa strada, se seguite questa strada, non andrete al governo, perché l'Italia è assai più grande di Twitter, che è un mondo piccolo e asfittico, chiuso e malato, spesso e volentieri. 800 24 00 24. Però naturalmente dopo di questo, cari ascoltatori, microfoni apertissimi a tutte le telefonate, anche critiche e criticissime nei confronti di quello che ha detto Saviano in questa occasione o in altre occasioni. 800 24 00 24. C'è anche il promo di Sanremo a far discutere, sentiamolo. Non ho l'età, non ho l'età di ramarti, non ho l'età per uscire sola con te. Quello che si vede, ve lo dico io, sono dei feti che stanno cantando nelle pance delle loro mamme. Vai avanti ancora. Quello che si vede nel video, feti che cantano. Tutti cantano Sanremo. E qualcuno, questo era Carlo Conti, qualcuno ha detto giustamente tutti cantano a Sanremo, nel senso che a Sanremo ma ci vanno tutti cani e porci. No, battute a parte, critiche, perché un autore di Sanremo ha postato sulla sua pagina Facebook questo promo in anteprima, che poi in realtà è stato diffuso, e sono stati sepolti dalle critiche, perché scelta di cattivo gusto, ma come dei feti, che c'entra la Lorenzin anche qua, il Fertility Day, inneggiare alle nascite, non lo so. Non è piaciuto, a voi è piaciuto questo promo di Sanremo? 800 24 00 24. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora vai con Sandro, che chiama da Bologna. 800 24 00 24. Ciao Sandro, buonasera. Ciao, buonasera. Ascolta, io non ho nessuna tessera di partito, però secondo me in questo Grillo ha esordito dicendo la verità, che la pensa, ma voglio dire, è un dato di fatto, del 90% delle informazioni, perché sicuramente Mentana, faccio un passo indietro, ha ritirato la querela per un fatto pubblicitario, perché ha fatto incassare il 30-40% dei cittadini italiani. Ma il dato di fatto no, aspetta, non ti seguo. Dici che Mentana ha ritirato per non perdere introiti pubblicitari, perché secondo te gli inserzionisti avrebbero ritirato le pubblicità per quello che è, per questa causa. Ma per quale motivo? Perché come ha girato sul web, sì. Se tutti quelli che guardano la 7 incazzati per quello che ha detto, perché avrebbe querelato. Ma guarda, quelli che guardano la 7 non sono incazzati con Mentana, non credo. È un TG molto personalizzato su di lui e lo seguono, anzi lo ammirano, quindi non credo che avrebbero potuto prendersela, anche allora, se magari allora, sono grillini. Allora, tra tutti sì. i TG, anch'io sono convinto che sia uno dei migliori, però il fatto che abbia fatto questa cosa qui, che abbia querelato, perlomeno voleva querelare Grillo, a mio parere, quando il web si è rivoltato dicendo non guardiamo più la 7, non guardiamo più la 7, io stesso avevo smesso di guardarla, poi ho ritirato la querela e l'ho aperto per vedere che cioè, cosa tu, avrebbe... tu segui quello che dice il web, se il web dice non guardate più la 7, tu non guardi più la 7? Sì, ma non perché sono una pecora, l'ho detto perché ritengo che Grillo abbia... Io ripeto, sì. non sono un grillino, non sono del Movimento 5 Stelle, io non ho la testa, ho avuto la testa... Vabbè, ho capito, la tua tesi aveva paura di perdere pubblico e quindi può darsi, sicuramente è apparsa un po' come una sceneggiata. Hanno ritirato la querela, però tornando all'oggetto della discussione... Sì. A me pare che quando ci siano delle notizie che vanno contro il governo, contro la Maria Elena Boschi, contro la Banca Etruria, contro l'MPS, vengono smorzate. Allora non c'è democrazia nella stampa. Può darsi, quando... non lo so, Sandro, è possibile che ci sia un trattamento di questo tipo? Bisognerebbe fare ogni sera l'analisi di tutti i telegiornali per capire questo. Non lo so, è possibile. La querela è stata ritirata sicuramente, il tutto, questo è il mio punto di vista, appare un po' come una sceneggiata. Io ho scherzato dicendo mi sarei appassionato alla querela di Mentana contro Grillo, a questa querela, a questo scontro, perché comunque rappresenta un po' un qualche cosa che attraversa tutti noi, no? Uno può essere grillino ma può anche dare ragione a Mentana, al contrario, perché comunque sono due, ho già detto, figure importanti e questo scontro comunque taglia proprio a metà la società italiana, ma tutti noi. All'interno, credo, di ognuno di noi ci sia una parte grillina e una parte mentaniana. Grazie, Sandro. Adesso è il momento di dare la buonasera al sindaco di Bari, Antonio De Caro, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Allora, De Caro, qua è l'ora di cambiare, come dice anche il titolo di questa canzone, dei Churchill, cambiare sul tema dell'immigrazione, perché mi sembra evidente che così come è andata negli ultimi anni, fra l'altro col suo partito al governo, diciamo questo, perché Monti, Letta, Renzi sono 5 anni. Alternati più partiti, diciamo. Sì, però il PD è una costante negli ultimi 5 anni, non sono pochi 5 anni di gestione. Ma prima di arrivare a questo, io voglio chiedere a lei, che è il presidente dell'ANCI, i sindaci, tutti i comuni italiani, cosa chiedete, visto che siete in prima linea, al governo in questo momento, che possa fare, che sia fattibile per rendere a voi che state in prima linea più affrontabile questa questione. Quello che abbiamo chiesto, l'abbiamo sottoscritto col ministro degli interni qualche giorno fa, è ottenere una distribuzione equilibrata del flusso migratorio all'interno del nostro paese, mi riferisco ovviamente alla prima accoglienza. Abbiamo stabilito un accordo per il quale se i sindaci volontariamente aderiscono al sistema SPRAR, cioè gestiscono in proprio un sistema SPRAR, quel sindaco deve dare accoglienza a 2,5 migranti ogni 1000 abitanti. Sono quello pochi, accaduto... e quindi si potrebbe fare, è chiaro, però questa cosa che si fa su base volontaria, questo è qui che casca l'asino, cioè se non c'è questa adesione volontaria, il sistema SPRAR, di cui abbiamo parlato pure qualche sera fa, che ha molti pregi, sicuramente, perché in genere non crea situazioni tipo quella di Cona a Venezia. Beh, nel comune di Cona sono 3.000 abitanti, gliene toccavano 8 di migranti, non 1.400 in una caserma. Però... è un problema per i migranti che stanno tutti insieme e provengono da diversi paesi, hanno diverse etnie, diverse abitudini sociali, stanno tutti nella stessa caserma, ed è un problema per la comunità, perché 3.000 residenti vedono arrivare 1.400 persone che non conoscono, che arrivano tutte insieme nello stesso posto. Però il metodo SPRAR, mettiamo che possa risolvere, siamo ottimisti, il 50% della questione. Gli altri dove li mettiamo? Dove li volete mettere? I sindaci che non aderiranno volontariamente non potranno utilizzare la clausola di salvaguardia. Per essere concreti, se ecco, il sindaco di Cona aderisce, potrà utilizzare un sistema SPRAR per 8 migranti e nessuna prefettura potrà utilizzare quella caserma o un altro edificio pubblico o non cioè, potrà dice, fare una sindaco... gara per usare una struttura ricettiva. Sì, allora spieghiamo bene, il metodo SPRAR intanto in due parole lo faccio dire a lei in che cosa consiste, ricordiamolo perché non tutti, anzi forse nessuno SPRAR sa esattamente. È una struttura che viene diciamo utilizzata in analogia a quella che gestisce la prefettura, solo che sono delle mini residenze, sono degli appartamenti, delle piccole strutture ricettive dove il comune accoglie sempre a spese del Ministero degli Interni un certo numero di migranti che abbiamo stabilito con quella quota di 2,5 ogni 1000 abitanti. Il comune offre un servizio attraverso un'azienda, una cooperativa, il privato sociale, sempre finanziato dal Ministero, e in questa maniera scatta la clausola di salvaguardia. Cioè la prefettura di quella provincia dove è ubicato quel comune, se deve fare una gara per individuare una struttura ricettiva, deve escludere quel comune dalla gara. Se sta cercando degli edifici pubblici, una caserma, un vecchio ospedale abbandonato, e quell'edificio pubblico è ubicato all'interno di quel comune che ha aderito al sistema SPRAR, la prefettura quell'edificio non lo può utilizzare. Sì. Resta il caso, De Caro, scusi, resta il caso di un comune che non ha spazi che possano essere adibiti a questo, e può tranquillamente non aderire al metodo SPRAR e tagliarsi fuori. Ma cioè, i comuni non devono avere degli spazi di proprietà. I comuni, esattamente come fanno le prefetture, fanno delle gare per individuare appartamenti, strutture ricettive con la società che gestisce il servizio e individua il locale. Non deve il comune individuare i locali e gli immobili, si fa una gara come fa la prefettura, dove le aziende possono partecipare, le cooperative, le aziende, le ditte partecipano, offrono lo spazio, ovviamente deve avere dei requisiti, mettono a disposizione i servizi sociali, i servizi sanitari, la cucina, che mettono a disposizione, così come benissimo, funziona. Ma questo sistema guardi, CAF, ne abbiamo parlato tante volte, perché effettivamente in tanti piccoli paesi, a volte anche di montagna, paesi disabitati, piccoli flussi di migrati, poche decine, possono addirittura essere integrati tranquillamente in un tessuto sociale, tanto paga il Ministero dell'Interno, comunque tra i tanti soldi spesi pubblici, almeno in questo caso si tenta di risolvere una questione, che è questa. Allora però si vede, neanche Minniti è tanto convinto che il metodo SPRAR sia sufficiente, perché propone i CIE in versione corretta, piccoli. Ma quella fuori... è un'altra storia, non c'entra niente con lo SPRAR. No, non c'entra niente, però è la risposta ad un unico problema, che è quello dell'accoglienza e della gestione di questi flussi. Ma il CIE è che ne pensa di questa proposta di Minniti? Il CIE non c'entra nulla con la prima accoglienza. Loro vogliono chiudere all'interno di quelle strutture persone che devono rimpatriare. Per noi sindaci, se quelle strutture devono diventare delle strutture dove rinchiudere per 90 giorni, 60 giorni persone che hanno commesso dei reati all'interno del nostro paese e devono essere rimpatriati, va bene. Se devono diventare dei ghetti, come è successo nel passato, non siamo d'accordo. Cioè solo persone che hanno commesso dei reati, uno che non ha commesso... Presidenti delle regioni. Sì, io credo che però Minniti voglia inserire non solo chi ha commesso dei reati, ma anche chi è semplicemente in condizione di essere un irregolare che va espulso. A noi non va bene, perché diventa un ghetto, anche perché da un CIE non si può uscire, mentre dal CARA si può entrare, si può uscire, perché sono in attesa del riconoscimento dello status di profugo. Quindi lei mi sta dicendo che il Ministro dell'Interno sta pensando una soluzione che il sindaco di una grande città come lei, non di Bari, dello stesso partito, non condivide, e quindi poi quando dovrà gestirlo non so come... Cosa avverrà? Cosa potrà avvenire? Beh, noi non vogliamo tornare indietro, diciamo, come venivano gestiti prima i CIE. Se ci fanno una proposta diversa è un conto, se fanno una proposta del CIE come era una volta, a noi non sta bene, non sta bene ai sindaci. Io non sono un sindaco del PD, sono un sindaco e sono... Sì, rappresento 8.000 sindaci. No, giustissimo, però si metta nei panni anche la tessera di partito, così come non gliela chiede ai cittadini. No, ma si metta anche nei panni, invece, mi scusi, però si metta anche nei panni di chi assiste. Così come è stata quella, il ministro ha accettato la nostra proposta dello SPRAR, non è una nostra competenza, è una competenza dello Stato, però siccome ci siamo scocciati come sindaci di vedere le prefetture che individuano strutture pubbliche, caserme, alberghi che vengono utilizzati senza porsi il problema dell'impatto l'impatto che può avere sulla comunità, perché un albergo con 500 posti letto in un comune di 300 abitanti ha sicuramente un impatto sui servizi sanitari, sui servizi sociali, sui servizi del trasporto, ha sicuramente un impatto. Ma infatti sono tutti contrari, De Caro. Può portare all'intolleranza. Ecco, allora noi vorremmo evitarlo se utilizziamo quel sistema. Però scusi, mi faccia fare una domanda, scusa, adesso se no parlatevi tra di voi, siete dello stesso partito, il presidente dell'ANCI, quindi è una carica istituzionale, parliamo del ministro dell'interno, siete dello stesso partito, Dio santo, parlatevi, perché se non è d'accordo nemmeno lei, qui sono tutti contrari a questa soluzione. Quindi su quella soluzione dello SPRA siamo d'accordo? No, sullo SPRA, sui CIE, sui nuovi CIE. Non siamo d'accordo, prima o poi saremo chiamati a esprimere anche il nostro parere, l'abbiamo letto sui giornali due giorni fa, incontreremo il ministro dell'interno nei prossimi giorni. Ecco, diteli, parlatevi un pochino, perché altrimenti diventa surreale, oltre che un problema, questa situazione. Ha capito cosa voglio dire? Cioè, lei è una carica istituzionale in questo momento, però... Guardi, se noi non solo abbiamo un incontro settimanale con il governo che si chiama... conferenza unificata, sì. Quindi arriverà il momento in cui il governo ci presenterà questo progetto e noi esprimeremo il nostro parere. E proporrete anche qualche cosa di alternativo? Certo, lo SPRA l'abbiamo proposto noi, ripeto, non è una nostra competenza, ci siamo assunti una responsabilità che non è nostra. Sì, però non mi torni allo SPRA, lo SPRA l'ha detto lei, è una cosa diversa, qua stiamo parlando di quelli che dovrebbero essere rimpatriati, di quelli che sono, cioè il settore irregolari, che facciamo con questi? Non eluda la domanda. Non sto alludendo la domanda. Per quanto riguarda gli irregolari, lo Stato deve individuare innanzitutto i rapporti di reciprocità con gli altri paesi, perché con alcuni paesi ce l'abbiamo, con altri no, e credo che il viaggio di questi giorni del Ministro degli Interni tenda a favorire questi rapporti per il rimpatrio, e poi dobbiamo trovare i fondi che credo ci debba dare l'Unione Europea per il rimpatrio, perché ogni rimpatrio costa circa 5.000 euro, non credo che l'Italia si possa permettere di spendere tutti questi soldi da sola senza almeno ottenere la deroga rispetto all'equilibrio di bilancio nazionale annuale. Senta, qual è l'errore più grosso che è stato commesso fin qua, secondo lei, dai governi? Non mettiamoci dentro solo quelli... Quello di affrontare questo tema, che ormai è un tema che non inizia quest'anno e non si chiuderà quest'anno, è iniziato diversi anni fa e continuerà nei prossimi anni, l'abbiamo affrontato in maniera emergenziale, invece è una situazione che va affrontata in maniera strutturale, quella della prima accoglienza. Quest'anno sono 176.000 persone in un paese di 60 milioni di abitanti non dovrebbero spaventare i cittadini italiani. È chiaro che se però porti 1.400 persone all'interno di un comune di 3.000 abitanti, il problema c'è e si vede tutto. Lo abbiamo vissuto qui a Cona, lo abbiamo vissuto a Giuliano in Veneto, lo abbiamo vissuto in tante comunità piccole e più grandi. Certo. Senta, io avrei voluto, glielo dico sinceramente, parlare anche di una buona notizia, perché siamo Si Può Fare, che riguarda Bari, 100 milioni investiti nelle periferie da parte vostra, un annuncio, le prometto che ne riparleremo, perché 100 milioni investiti nelle periferie è una buona notizia per quella città. Adesso però purtroppo devo dare la linea alla borsa. Grazie De Caro, a presto. Grazie a voi e buona giornata. Borsa. Gli affari sono la guerra. Vince il più forte. Io voglio il futuro, voglio vincere. La storia vera dell'uomo che ha fondato un impero su un hamburger. I fratelli sono suoi soci. Non mi interessa. Lei me ne liberi. Michael Keaton, The Founder. Che nome splendido, McDonald's. Dovevo averlo. Dal 12 gennaio al cinema. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora andiamo con gli ascoltatori all'800 24 00 24. Iniziamo con Giancarlo da Frosinone. Buonasera, ciao. Sì, buonasera. Intanto volevo precisare, sono di Ceccano, Ceccano in provincia di Frosinone. Ok, momento proloquo, Ceccano. Niente, riguardo, magari volevo intervenire sullo spot di Sanremo. Che sì, l'hai visto? Sì, l'ho visto e l'ho trovato alquanto ridicolo e volgare. Volgare per come si presenta. Del resto anche Sanremo è ridicolo e volgare, almeno sì. Come no, la però vedo io. Possiamo dire che, cioè, dal tuo punto di vista è più volgare Sanremo o più volgare penso che lo sia spot, più volgare Sanremo, perché continuano a manifestare non so che cosa. Ma poi scusa, volgare in che senso, Giancarlo? Cosa vuol dire volgare? Nel senso che io sono 40 anni che vedo Sanremo e ogni anno vince una canzone, l'ultimo classificato è sempre colui che vende più dischi da sempre, quindi non questo vedo, storicamente è stato vero in passato, è spesso vero, non cioè, sempre. Oggi c'è una banda di ridicoli, sì, che fa vincere a tutti i costi il raccomandato di turno, oppure assistiamo veramente alla disfatta della musica italiana, perché non è no, ma io volevo capire, però non tanto parlare di Sanremo, è possibile anche questo, Giancarlo, grazie per averci chiamato, se vuoi aggiungere qualcosa, però sul promo in cui si vedono i feti che cantano, vorrei capire se questa è una cosa che urta la sensibilità, che trovate scioccante, che trovate, come ha scritto qualcuno, mostruoso, o un riferimento al Fertility Day del ministro Lorenzini, ex ministro Lorenzini, eccetera, o se invece nel 2017, perché no, fare uno spot di questo tipo. Questo mi interesserebbe capire. Giancarlo, non so se vuoi aggiungere su questo, ma... Sì, aggiungo che è un'offesa proprio per quello che è il creato, questo. Giusto, vabbè, giusto, cioè, questo è il tuo punto di vista. Ok, grazie, buona serata, grazie. Andiamo con Stefano dalla provincia di Roma, vai. Buonasera. Buonasera. No, volevo intervenire in merito a Roberto Saviano, perché sì, ogni volta che sento un suo illuminante parere sui giornali mi chiedo da dove nasce questa autorevolezza che offre, che espone ogni volta questo scrittore, che grazie a Gomorra ha fatto la sua fortuna. Due commenti brevissimi. Di Gomorra ricordo che ci furono moltissime cause intentate a Saviano con l'accusa di plagio, però non se ne è saputo più nulla. E poi c'è un piccolo commento sulla sua ultima grande fatica letteraria, questa Paranza dei bambini. Allora, sarà che sono stato amico carissimo di Amato Lamberti, che ha dedicato una vita intera... Di chi, scusi, di chi, Stefano? Amico di chi? Non abbiamo capito? Amato Lamberti. Amato Lamberti è stato l'osservatorio sulla Camorra di Napoli, sì, professore di sociologia, storia della sociologia a Napoli, ha dato la sua vita a studiare la Camorra e non mi risulta che nell'ambito delle sue conoscenze, dei suoi contatti ci fosse Saviano, ma una domanda mi sorge spontanea. Come si fa a scrivere della Paranza dei bambini, che sicuramente è uno dei fenomeni più allarmanti che sta interessando la mia povera città di origine? La Paranza dei bambini è uno dei fenomeni che riguarda gli ultimi mesi. Cos'è la Paranza dei bambini, visto che tu lo conosci? La Paranza dei bambini è l'evoluzione, chiamiamola evoluzione, della Camorra, sono, sì, dei giovani delinquenti intorno ai 14 anni, che fanno scorribande a Napoli tutte le, okay, sere sparando. Giusto. Era giusto dirlo, perché il libro di Saviano, però è giusto dirlo, visto che tu parli anche molto bene. La Paranza dei bambini, che praticamente ha la presunzione, seppure ammantata da un tono letterario, sì, romanzesco, di descrivere un fenomeno sociologico della gravità. Stefano, posso farti un complimento, una domanda? Sembra che tu stia leggendo, da come no, parli, bello, liscio, preciso, soggetto. Anche perché sono cieco, caro dottor. Ecco, vedi, ho fatto subito una bella gaffe. Comunque, complimenti, hai un eloquio molto lineare. Dopodiché concludi per dire che... Concludo per dire che per scrivere della Paranza, sì, dei bambini, che emerge con grande vigore nel documentario firmato da... come si chiama, dalla giornalista napoletano che ha portato la Paranza dei bambini a livello di documentario, Michele Santoro, per parlare di Paranza, come ha fatto lui, che vive in una residenza, siamo arrivati al punto dopo alcuni minuti, lui che non vive più a Napoli, come ha fatto? Va bene, Stefano, abbiamo capito, grazie. Beh, l'obiezione ci sta tutta. Un giorno, parlando anche con De Magistris, disse: ma in effetti Saviano ha perso il contatto con Napoli, non disse con la realtà ma con Napoli, quindi evidentemente, se lo dice anche qualcuno che sicuramente non gli è ostile pregiudizialmente, forse è vero che Saviano ha perso il contatto con Napoli, come dice lei. 800 24 00 24. Ciò non toglie che io ho definito vili gli attacchi anche da piccoli fascistelli, ho usato questa espressione, fatti da Salvini e da Giorgia Meloni nei suoi confronti, perché anziché rispondere a quello che dice Saviano hanno augurato che se ne andasse lui a vivere in Africa, e alcuni follower su Twitter hanno scritto mi auguro che lo facciano fuori, e questo non è accettabile, non è proprio tollerabile. Ignazio da Napoli, buonasera. Va bene, buonasera. Senta, volevo solamente fare un riferimento a Grillo e poi anche a Saviano. Sì. Allora, per Grillo volevo dirvi che quando si parla del Movimento 5 Stelle, quindi di Beppe Grillo che ha fatto questa sparata, questa pagliacciata riguardo alla giuria popolare sui giornalisti, è solamente, diciamo, uno strombazzamento della posizione del Movimento 5 Stelle, che è lui che decide su tutto. Ma la cosa principale che ci si dimentica spesso e volentieri di dire, che Beppe Grillo qualche anno fa disse che la mafia degli anni 50-60 era una cosa positiva. In questo modo ha detto tante cose Grillo qua, poi quando faceva i suoi spettacoli con i suoi paradossi, figuriamoci. Genere, scusi, ma uno che fa una dichiarazione del genere, no? E vuole assurgersi, va bene, vuole assurgere a una nuova nuova voce della politica italiana che dovrebbe teoricamente fare pulizia e non fa pulizia. Dire questo di una mafia che negli anni 50-60 ha ucciso Placido Rizzotto, che è stato il sindacalista eroe delle lotte contadine in Sicilia, è di una gravità inaudita, e mi meraviglio che la magistratura non l'abbia inquisito e arrestato, visto e considerato che questa è un'offesa, un'ingiuria anche all'Italia che combatte contro la mafia ogni giorno. E in questo rientra Saviano. Cioè, dire che Saviano è una persona che sta fuori dalla realtà, che scrive libri così disgiunto dalla realtà sociale, non è vero. Ci si dimentica di dire che Saviano ha pagato un costo altissimo alle sue denunce sui casalesi. I casalesi non si conoscevano fino a quando Saviano... Va bene, però uno può dire che Saviano, come ha detto l'ascoltatore di prima, come fa a parlare di Napoli se non vive a Napoli? Questo si può dire o non si può dire? Secondo me si può dire. Maurizio, ma non è vero che Saviano non parla di Napoli perché non sta a Napoli. Parla di Napoli compatibilmente con il suo studio, con il suo impegno, con la sua... Questa è una risposta, va benissimo Ignazio, va benissimo. Infatti io dico, è tutto ammesso, tutto ammissibile, si può dire tutto, si può criticare tutto. Quello che non si può fare, secondo me, è augurarsi l'eliminazione fisica di una persona. Bisognerebbe fermare queste persone, tipo Salvini, ma noi dedichiamo Salvini e la Meloni da dove vengono? La Meloni viene dalla realtà neofascista del Movimento Sociale, e Salvini veniva dalla Lega Nord, che quando era a Monaco Salvini sputava sul sud, sputava su tutta la gente del sud. Va bene, grazie Ignazio, ok, abbiamo capito. Francesco dalla provincia di Padova, vai. Sì, buonasera. Io volevo intervenire per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, dicendo anzitutto che il PD deve smetterla, deve prendersi le responsabilità di questa gestione, perché 5 anni che governa. Certo. Ci hanno raccontato un sacco di bugie per diversi anni, almeno 3 anni, dicendoci che scappavano dalla guerra, che la maggior parte erano siriani che scappavano dalla guerra, e non era assolutamente vero. Sì, però non scapperanno tutti dalla guerra siriana, Francesco, però comunque sono quasi tutti paesi, quelli di provenienza principali, dove ci sono guerre civili, tipo l'Eritrea, o situazioni del genere, tipo Guinea, Nigeria. Sì. Che dobbiamo ospitare tutti quanti, che anche i migranti economici devono essere ospitati, però ce lo diciamo in faccia chiaramente. E si cerca di affrontare un problema in maniera meno ideologica di quanto non si stia facendo adesso. Un'altra cosa che volevo dire, non è immaginabile continuare con una gestione del genere, bisogna trovare una soluzione, tutti quanti. Che si mettano a discutere. Bravo, tutti quanti, bella questa cosa, tutti quanti. Sarebbe bello che si mettessero a discutere insieme, tutti quanti, veramente, per una volta, perché questo è un problema gigante, proprio questo qua dell'immigrazione. È un problema enorme, planetario, globale, galattico, e non si può affrontare sicuramente uno contro l'altro, no? Quindi hai detto una cosa giusta, tutti insieme ad affrontarlo. Però li vorrei vedere, vorrei vedere il PD a rimboccarsi le maniche concretamente, però vorrei vedere anche Salvini che si mette lì con Minniti sul serio, anche se all'opposizione, a cercare di affrontare questa questione qua. 800 24 00 24, traffico tra poco. Si può fare, si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio avere gli occhi di Paul Newman, le labbra Rocky Horror, i capelli Lenny Kravitz. Per me rovinano la piazza, a Firenze l'hanno bloccato, non gliel'hanno fatta prima. È una buona opportunità perché per i turisti è un posto in cui si può mangiare a poco prezzo e ormai, visto che siamo anche nel concetto di mondo globalizzato, è una cosa positiva il fatto che ci sia un McDonald's a portata di tutti, soprattutto in una zona come questa dove i posti vicini sono abbastanza cari. Allora, avete presente la questione del ristorante di McDonald's che doveva aprire, era in ristrutturazione lo spazio in un palazzo vicino al Vaticano, nel centro di Roma, quartiere Borgo Pio? Ebbene, sì, no, tra favorevoli e contrari c'era stata tutta una discussione, alcuni prelati avevano detto che erano preoccupati perché, ma come un ristorante così, non lo so, che di bassa qualità o una multinazionale che inquina l'aria intorno al Vaticano, avevano scritto una lettera al Papa che naturalmente li ha ignorati, però c'era anche un comitato di cittadini, abitanti del quartiere che pure si erano espressi contro l'apertura di questo McDonald's. Ebbene, il ristorante è regolarmente aperto, credo, un paio di giorni fa. È con noi il presidente del Comitato Salvaguardia Borgo Pio, Moreno Prosperi. Buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera. Allora, perché lei, insieme ad altri suoi concittadini abitanti del quartiere, siete contrari all'apertura di un ristorante che un McDonald's, un ristorante con panini a buon mercato, ce ne sono tanti in tutte le città. Allora, intanto come si inserisce il discorso? Il comitato è nato dalla seconda metà del 2015. Da allora noi stiamo lavorando lungo tre direttrici: la cultura, quindi salvaguardare e valorizzare l'identità storico-culturale del rione, il traffico e la mobilità, realizzare un nuovo piano di mobilità nel rione, igiene e decoro urbano. A quest'ultimo proposito, credo che sia sotto gli occhi di tutti il degrado del decoro urbano e l'aggressione commerciale su aspetti monumentali più straordinari, così come lo spopolamento dei vecchi quartieri storici dove gli artigiani e i vecchi negozi sono stati sostituiti da mini market. Sembra di essere in un fast food a cielo aperto. Sì. Il discorso McDonald's si inserisce in questo quadro. Se fosse stato un loro competitor, avremmo agito allo stesso identico modo. Perché secondo noi è stato un gravissimo errore consentire l'apertura del punto vendita? Perché McDonald's ha acquistato la licenza di somministrazione di cibo e bevande da un piccolo ristorante di cucina tradizionale situato a Borgo Pio. Ha preso questa licenza, l'ha trasferita nei locali di 600 metri quadri dove ora hanno aperto l'esercizio. Benissimo. Questa autorizzazione, a nostro avviso, non andava rilasciata. Non soltanto perché si pone in contrasto con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che tutelano le attività commerciali tradizionali, ma anche perché soprattutto Borgo Pio, ricordiamolo, è un bene artistico, culturale e civile, sì, riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Va bene, in tutto vero, tutto vero Prosperi, però non si possono, sì, trasferire licenze da un locale di cucina tradizionale ad uno di cucina. E infatti straniera. So che voi avete fatto anche un ricorso al TAR. Abbiamo fatto anche un ricorso. E quindi TAR. È possibile anche che il TAR prenda sul serio, perché se ci sono dei cavilli o comunque delle motivazioni, come lei dice, di questo tipo, potrebbero anche prendervi sul serio. Ma voglio dire, perché in fondo un McDonald's può deturpare un quartiere anche importante come Borgo Pio, anche monumentale, eccetera, eccetera? Allora, perché un mini market può deturpare di più di un ristorante tradizionale dove magari entri, mangi male e spendi 50 euro? Parlo spesso quello che accade, l'esperienza allora, accade a turisti stranieri che poi rimangono fregati, perché questo accade a Roma e nessuno dice niente, eh? Allora, a parte che noi siamo nati per il rispetto della legalità e più di una volta siamo entrati in contrasto con i commercianti, perché è chiaro che la legalità va fatta rispettare a tutti e noi dobbiamo dare l'esempio. Fondamentalmente, secondo noi, perché siamo contrari, è basato su quattro punti. Stravolge l'identità artistica, culturale e sociale del rione. Pregiudica l'attività degli esercizi commerciali tradizionali, ovviamente di chi lavora seriamente, che sono quelle che a noi stanno a cuore, sì, crea problemi di traffico, viabilità, sosta che è già al limite del collasso, ma soprattutto concretizza un aumento esponenziale del problema della sicurezza. A quest'ultimo addirittura un McDonald's aumenta il problema della sicurezza. Io vi seguo finché dite la questione dell'identità del quartiere, perché è vero, vi seguo io, ma come secondo, penso che vi seguano molti altri ascoltatori. Un momento, Prosperi, vi seguo perché credo che in molti quartieri delle città, soprattutto città importanti, monumentali, stiamo assistendo a tutto un cambiamento. Ci sono soltanto che banche o che negozi di firme internazionali. Il centro di Roma può apparire simile a quello di Mumbai o di New York, e questo è una cosa su cui si può ragionare. Però se mi dite la sicurezza, un McDonald's che genera insicurezza, allora lì non vi seguo più. Allora, il McDonald's è a 60-70 passi da Porta Sant'Anna, che è l'ingresso primario di Città del Vaticano, e grosso modo la stessa distanza dal Passetto e dal Colonnato del Bernini. Allora, è quindi a due passi dal Vaticano, è di fronte alla pubblica sicurezza che c'è lì a Borgo. Ma è un ristorante come erano quelli che c'erano prima. Ma il simbolo è l'icona della globalizzazione del Made in USA nel mondo. Ma perché mette a rischio la sicurezza del quartiere? È un'icona della globalizzazione? Ma non solo del quartiere, è un problema di sicurezza per quello che rappresenta il McDonald's, e peraltro in un momento come questo. Secondo noi, non riesco a capirlo, ma forse è un problema mio. Sa perché le faccio queste domande? Perché io credo che molti di fronte a questa questione pensino che ci sia da parte vostra magari un pregiudizio, un atteggiamento snob all'inizio nei confronti di McDonald's, perché è un ristorante di un certo tipo. Assolutamente no, gliel'ho spiegato all'inizio. Cioè, il discorso di McDonald's si inserisce in un quadro in cui noi stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative su cultura, traffico, igiene, decoro. All'interno di questo quadro si inserisce il discorso del McDonald's. Va bene, ho capito, però finisco quello che stavo dicendo. Una sorta di atteggiamento da parte vostra un po' di preclusione di fronte a una cosa che invece fa ormai parte del turismo di massa. Dobbiamo in qualche modo farci conti, accettarlo. Un panino a pochi euro è un punto di riferimento per tutte quei turisti che non vanno nei ristoranti a spendere a pranzo e a cena 40-50 euro, come può accadere tranquillamente. Questo buono, è turismo e introiti per Roma. Sì, ma le garantisco che un buon panino fatto bene a pochi euro lo trova anche su Borgo. Questo è chiaro, è possibile. No, glielo garantisco perché vivo qui dal 2000, quindi voglio dire, lo conosco bene. Sono d'accordo che sicuramente non tutti danno cibi che hanno un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, sono d'accordo come succede dappertutto, però il nostro sforzo è proprio questo, cioè il comitato nasce proprio per tutelare la legalità innanzitutto. Ma c'è anche il professor Asorrosa nel comitato? Ho visto. Assolutamente sì, è un abitante del quartiere. No, è un membro del consiglio direttivo, quindi ce l'ho proprio a fianco, Alberto Asorrosa. Ah, è lì con voi, è lì con lei? No, in questo momento a fianco, nel senso, nel ruolo, lo affianca nel ruolo di presidente del comitato. Assolutamente. Ma lei quando va a cena fuori, dove va nel suo quartiere? A Borgo. Ci sono diversi ristoranti dove vado. Tipo? Ne faccia uno Ma non mi va di fare pubblicità. Non mi dica il nome, mi dica il tipo, la tipologia, pizzeria. Va bene, io vado da Romolo. Ecco, e che tipo di roba fa Romolo? Cucina tradizionale. Ok, quindi solite cose, carciofi, la romana, quelle cene meravigliose che si fanno. Si mangia bene, ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Quanto si spende però per una cena? Sincero. Dipende da quello che uno mangia. Ci sono i primi che vanno da 8 euro, mi pare, se uno non vuole mangiare in un ristorante, ci sei pieno di pizzeria, oppure va da Bianca. Da Bianca, che è il punto vendita, la salumeria, dove si può bere, si può mangiare, si possono avere dei panini con dei cibi veramente molto molto buoni a pochissimi euro. Infatti è conosciuta a livello internazionale Bianca, quindi voglio dire, adesso sono anche in difficoltà perché sto parlando di alcuni punti vendita, se uno vuole prendere un caffè, un cornetto, va alla latteria che è proprio a fianco a Bianca di Alessandro. E se uno vuole un panino va al McDonald's, via, dai. se uno vuole il panino va a McDonald's, e secondo noi il problema non è il panino, ma come dicevo prima è l'identità storico, artistica e culturale di un quartiere. La verità è sto parlando seriamente, sì, cioè, sì. No, ma anch'io sto parlando seriamente, io dico la verità, sa qual è? Che ci dovrebbe essere da qualche parte qualcuno in comune o non lo so che stabilisce quante licenze ci dovrebbero essere di un tipo o dell'altro, dove dovrebbero andare, con una logica e con un buon senso, altrimenti credo che io e lei non saremmo qua a parlare di questo, probabilmente, se ci fosse. Lei ha pienamente ragione ed è il punto sul quale noi stiamo lavorando con le istituzioni sulla delibera 35/2010 e sulla 36/2006 per adeguarla ai tempi, perché chiaramente è impossibile vivere in un quartiere che è il cuore, è l'immagine di Roma nel mondo, perché chiunque viene assolutamente, a Roma questo sì. Al Colosseo e a San Pietro, viene da noi, ce l'abbiamo tutti in casa. L'immagine che tra le varie cose bordo, che uno si aspetta di trovare, però nel centro delle grandi città ormai credo c'è anche un McDonald's, e se non sono 20 ma sono 4 credo che non ci sia neanche niente di male in fondo, Firenze, anche per però, l'identità di una città, ma infatti il discorso dell'UNESCO non l'hanno hanno fatto aprire, una attenzione. Scelta diversa. Ultimissima domanda, l'ha mai mangiato un panino del McDonald's? Sì, penso, certo, di l'ho sì. mangiato, però mia figlia non ce l'ha mai portata quando era piccola. Quanti anni c'ha sua figlia adesso? Ora ne ha 21 e se ne vuole ci va, infatti ci va qualche volta, non è quello il problema, ma ripeto, visto? Non è il problema del McDonald's, è il problema del McDonald's qui a Borgo. Va bene, è chiaro, grazie per essere stato grazie con noi, voi. Moreno grazie Prosperi voi, del Comitato, avete sentito, e questa era la notizia, insomma il ristorante è aperto, poi cari ascoltatori, come la pensate su questo? Siamo qua, 800 24 00 24 per chiudere con Walter da Rimini. Vai Walter, però un minuto perché poi chiudiamo. Buonasera, velocissimo sulla questione Mentana Grillo. Sì. Ma io ho trovato scandaloso, ovviamente l'uscita di Grillo è anche molto pericolosa, la questione della commissione, cioè veramente siamo ipotetiche giurie popolari, sì. Ma una roba fuori di testa. Non sono d'accordo con lei, dice, nonostante apprezzi lei e la sua trasmissione, quando dice che Mentana ha fatto un po' una sceneggiata, perché secondo me Mentana ha fatto quello che doveva fare, e anzi mi sarebbe piaciuto che, così come ha trasmesso quello che Mentana ha detto ieri sera, ci fosse anche l'ultimo pezzo in cui Mentana si chiedeva perché tutte le altre testate. No, ma non a me Mentana reagito. È piaciuto moltissimo quando ha fatto quella reazione d'orgoglio, perché è coerente con lui, col suo personaggio, esatto. Con quello che rappresenta, e rappresenta sicuramente non solo se stesso, ma una parte anche di chi lo segue e dei lettori. Sì. Sceneggiata, mi riferivo al fatto che il giorno dopo, di fronte a quella pseudo-rettifica di Grillo, ha detto sì, torniamo indietro. È una pseudo-rettifica, però gli do molto ragione quando si è chiesto come mai nessun altro delle testate giornalistiche abbia risposte in maniera adeguata, insomma. Tra quelli che erano citati all'interno, la domanda era legittima. C'erano varie testate, Radio 24 però non c'era, glielo posso dire. Ci fermiamo per il giornale radio, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Partiamo, andiamo, è la chimica degli elementi, è la scienza bellezza, si procede per esperimenti, questo è un grande giorno da vivere, io ci voglio credere, questo è un grande giorno da vivere, senza limiti, senza fiato, tutto giusto, tutto sbagliato. È la scienza bellezza, dice Jovanotti. È un po' la sua canzone, professore Roberto Burioni. Buonasera. Buonasera, grazie. Sì, beh, la scienza è molto bella, una delle cose più belle che abbiamo. Certo. E lei, professor Burioni, è medico ordinario di microbiologia e virologia dell'Università San Raffaele di Milano, che una voce nota di Radio 24, ospite spessissimo a Cuore Denari con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, però sale a questo punto agli onori della cronaca per una questione, no? Siamo nel mezzo di quel ciclone con cui abbiamo cominciato anche la trasmissione, la scienza contro le bufale, i tempi del sapere contro il populismo, l'uomo della strada contro il professore. Allora, lei incarna naturalmente la parte, avete capito benissimo, del professore della scienza. Allora, tutto nasce da una questione, un post sulla meningite. Molti pensano la meningite è una malattia che sia portata, diciamo, molti casi di cronaca in questione di vittime, ahimè, per meningite, malattia portata dall'Africa. Lei dice no, e adesso poi parleremo anche di questo, ci spiegherà perché, però poi aggiunge una questione, dice: guardate che la scienza non si presta a un dibattito, a discussioni, venite qua sulla mia pagina Facebook a dire la vostra, non è democratica la scienza, qui parla solo chi ha studiato. Allora, però questa è una verità indigeribile per chi frequenta i social, evidentemente, o no? Ma è strano, perché questo concetto è valido in campo sportivo. Io sono appassionato di calcio, non ho mai sentito una telecronaca fatta da un giornalista che non conosce le regole del football. Questo è vero. Quando uno fa una telecronaca di basket, sa che al basket, che il basket si gioca la palla. Però poi, come si dice, abbiamo 60 milioni di allenatori della nazionale. Oh, sì. Però ecco, questo è anche bello per certi aspetti, però per poter dibattere un qualunque argomento della vita è necessario conoscerlo. Io non posso giudicare o come un pianista esegue una sonata di Beethoven se non l'ho mai sentita. Posso anche farlo, però la mia opinione non è particolarmente utile. Nel caso specifico, io spiegavo che la meningite che abbiamo, le meningiti da meningococco che abbiamo qui in Italia, sono causate da ceppi che sono diversi da quelli africani. Allora, faccio una piccola premessa, così do questo elemento. Allora, gira questa voce, ci sono dei piccoli post, delle pagine che scrivono questo su Facebook, l'hanno scritto anche sul suo profilo. C'era una pubblicità di Forza Nuova: sappiamo benissimo da dove viene la meningite, basta con l'immigrazione killer, eccetera. E qui interviene lei. No, in questo caso non è vero, io non voglio dare assolutamente un giudizio politico su questo, ma dal punto di vista scientifico queste meningiti da meningococco sono causate nel nostro paese da ceppi diversi rispetto a quelli che circolano in Africa. Cioè, sono due malattie che non sono... Sono la stessa malattia, ma causata da batteri che hanno, diciamo così, un'impronta digitale diversa, che noi sappiamo riconoscere. E questo è quello che è vero. E il fatto che la scienza non è democratica vuole solo significare che non può andare a votazione. Cioè, se anche il 99% della popolazione italiana votasse che 2 più 2 fa 5, ancora continuerebbe a fare 4. Mentre magari per altri aspetti, la mia è una frase, la scienza è la cosa più democratica che esista, perché non esistono scorciatoie, uno può anche essere ricco, ma coi soldi non riuscirà mai a comprarsi la conoscenza per la quale ci vuole lo studio, per i ricchi e per i poveri. Questo è un messaggio importante, specialmente per i giovani che magari si vogliono accostare a questa cosa. Certo. Fantastica. Non solo, ma la differenza tra come argomenta lei sulla sua pagina e le persone che la criticano è che lei cita sempre degli articoli, ovviamente, perché con la scienza si fa così, si citano le fonti, non è che uno dice una cosa e poi se ne va lì e la lascia lì, come spesso capita sui social, eccetera. Però le voglio chiedere, questa questione di mettere in discussione il suo sapere, la sua scienza, quello che lei ha studiato, il suo ruolo di medico, la sua istituzione, cioè anche il fatto che lei rappresenta in qualche modo un'istituzione medica, le capita solo su internet, sul web e sui social media, o le capita anche qualche volta al bar o altrove, in altre sedi della vita reale? Ma guardi, può capitare al bar, può capitare nella vita, peraltro io devo essere messo in discussione, perché è giustissimo che un ricercatore sia confutato, sia discusso per quello che fa, però deve essere qualcuno che può farlo con cognizione di causa. Io, che non sono un chirurgo vascolare, non mi sognerei mai di andare a criticare come il mio amico, professor Chiesa, chirurgo vascolare della mia università, fa le sue operazioni, perché non ho gli strumenti per criticarlo. Devo dire che nella vita reale questo succede di meno, perché quando mi invitano a fare una conferenza io mi trovo sul palco e le persone si trovano in platea. Io sono in platea se si parla di qualcosa che non è il mio campo, quindi in moltissimi casi, perché se è vero che so quello che ho studiato, tutto il resto sono una persona ignorante che da chi ha studiato può imparare. Certo. Ecco, la vita reale ci dispone in una maniera simmetrica. Io sono il professore, i miei studenti sono gli studenti, per cui mi rispettano e mi stimano, poi ovvio mi fanno tutte le domande del mondo e hanno il diritto di farmi Invece lei dice sui social c'è questa orizzontalità per cui tutti a pari, si parte tutti alla pari. Però poi il direttore della NASA e un astrologo di provincia possono parlare con la stessa autorevolezza, e questo accade peraltro nel campo dei vaccini, perché ci sono tantissimi studiosi anche molto più bravi di me che poi vengono, si incontrano con persone che non ne sanno proprio nulla e non per questo si attengono dal pretendere di ribattere. C'è un ascoltatore che dice: l'ospite che lei sta intervistando è scandalosamente di parte perché l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che la meningite è proveniente tramite immigrazione. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è assolutamente vero. L'OMS non ha mai messo un parere del genere. Ma neanche per idea. Però senta, questo è un esempio, se io dicessi questa cosa, io perderei la mia reputazione, cioè un mio collega mi chiamerebbe 5.9 e mi dice: ma insomma, che ti è saltato in mente? Per questo io metto le fonti, perché è giusto che ognuno possa non credere e volere controllare, ed è giusto questo. Però io le faccio un'altra domanda, proprio da uomo della strada, perché spesso le bufale hanno una caratteristica di essere delle menzogne, però costruite partendo, a volte volutamente, a volte per caso, involontariamente, però da piccoli elementi di verità, da piccole notizie lette, magari poi interpretate male. Allora, la domanda che io le faccio è questo: c'è un collegamento in generale tra l'immigrazione e il rischio di malattie? Cioè, sappiamo che in Africa ci sono malattie infettive che magari da noi sono state debellate, questo sì. Ma certamente questo, ma gli spostamenti di uomini, di chiunque, portano agli spostamenti dei virus e delle malattie, in qualunque direzione, perché per esempio l'ultima piccola epidemia di morbillo negli Stati Uniti non è stata causata da degli stranieri che sono andati negli Stati Uniti, ma da due americani non vaccinati che sono andati in vacanza nelle Filippine. Ora, è ovvio che qualunque spostamento di persone pone una necessità di essere attenti dal punto di vista delle malattie infettive. Quindi, in linea di massima, dobbiamo essere attenti. Per esempio, in alcuni paesi sfortunati c'è ancora la poliomielite. Ma non è che c'è perché questi non si vaccinano, c'è perché, poveretti, c'è la guerra civile, perché li bombardano, perché ammazzano chi va a vaccinare. Ecco, se da questi paesi un poveretto arriva che ha la poliomielite perché non si è potuto vaccinare, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere tutti vaccinati noi. Ecco. Perché se tutti siamo vaccinati, se uno di questi sfortunati arriva in Italia, non succede niente. Purtroppo, in alcune zone del nostro paese, la gente non vaccina i figli. A questo proposito, anche un attimo prima poi di parlare più in generale dei vaccini, le voglio far sentire questo medico di un servizio sanitario qua di Milano che segnala come stiano aumentando i vaccini contro la meningite, e poi le voglio chiedere se è giusto vaccinarsi per chi non è vaccinato, perché anche di questo si sta parlando in questo momento, e già che ci siamo diamo un'informazione. Vai, sentiamo il medico dei servizi sanitari. Quante email ricevete ogni giorno? Sono circa 200 al giorno. Molto aumentate rispetto al passato? Tantissimo aumentate rispetto al passato, perché noi questo tipo di richiesta di fatto non l'abbiamo mai avuta, così, così intensa e così frequente. I vaccini ci sono, quantitativamente parlando? I vaccini ci sono, sia quelli, ormai tutti i tipi di vaccini contro il meningococco, quindi sia quello quadrivalente ACVY, sia quello contro il meningococco B. Ecco, insomma, siccome la meningite non è una cosa per cui ci si vaccina obbligatoriamente, cosa bisogna fare in questo momento, secondo lei? Allora, in questo momento, prima di tutto, non ci sono motivi di allarme, perché i casi di meningite nel nostro paese sono stabili. Tuttavia, però, la meningite è una malattia molto grave. È una malattia che è difficile da diagnosticare e, anche se perfettamente curata, può avere conseguenze gravissime. Nel 10% dei casi, addirittura la morte. Bene. Noi abbiamo un vaccino che è sicuro, che è molto efficace, e dove è stato usato a tappeto, vaccinando tutti i bambini e tutti gli adolescenti, ha praticamente azzerato la malattia. In Inghilterra nel 1998 c'erano più di 1500 casi da meningococco C, dopo 9 anni ce n'erano 14. E il vaccino aveva interrotto la trasmissione della malattia e aveva azzerato la malattia non solo tra i vaccinati, ma anche tra quelli che non si erano vaccinati, ecco, perché la vaccinazione, questo è importante, non è solo un atto di protezione individuale, è un atto di responsabilità sociale. Sì, certo, che evita la, la contaminazione. Non circola più. Mm. Però vedete, io dico, le bugie sono molto gravi. Vedete, dico agli ascoltatori che professor Burioni cita, per esempio, un fatto, no? E dice: in Inghilterra nel 1998 c'erano 1500 casi di meningite, vittime o casi, scusi. Ha detto. C'erano 1500 casi. Casi. Dopo sette anni, anzi dopo nove anni, ce n'erano 14. Ecco, questo è un fatto. No? Uno può dire non è vero, può dire non è vero, però deve trovare una, qualcosa che supporti questa cosa. Se no, io indico il libro che si chiama Vaccine, la sesta edizione, l'autore Plotkin, non mi ricordo la pagina a memoria, ma lo potrei ritrovare. E io dico che lì c'è scritto quello che dico, quindi uno può prendere questo libro. Uno che dice che non è vero deve dire c'è scritto da un'altra parte, in un testo scientifico che usato, letto, approvato da qualche autorità, da qualcuno, c'è scritto cosa. Se no, puoi dire quello che ti pare, ma non ha senso. Senza, sulla questione dei vaccini, no? Lei ovviamente un difensore della cosa dei vaccini. Sul è come difendere i freni nelle automobili. Sì, cioè, beh, senza si va a sbattere. Allora dico, lo sono anch'io, mettiamola così, non voglio giocare in nessun modo a fare... ad alludere a qualche cosa. Ma non ci sono due opinioni, ecco, sui vaccini, e la scienza è concorde in maniera unanime, poi ci sono tante cose sulle quali si discute. Però torno a quel senso di frustrazione che a volte hanno le persone, a quella volontà di approfondire magari senza strumenti, e una obiezione, sorvolo sulla questione dell'autismo che è stata già smentita milioni di volte e non ha alcun senso, non ha alcun fondamento. La questione che le case farmaceutiche si possano arricchire con i vaccini e invece sembra una cosa più sostanziosa. Lei però dice che non è vero, è il contrario. No. E anche qui ci sono i numeri che non si possono discutere. Quindi nel 2015 la spesa per tutti i vaccini in Italia è stata pari all'1,4 della spesa farmaceutica, circa 318 milioni di euro. E la spesa per una sola malattia, per la quale non abbiamo il vaccino, l'epatite C, è stata di oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro. Per darle un'idea, vaccini 318 milioni, farmaci anti-ulcera 1 miliardo. Ora, un euro speso in vaccini ne fa risparmiare almeno 30 in cure successive. Questi sono numeri. E quindi lei dice che le case farmaceutiche avrebbero interesse che le malattie dilaghino. Sono degli enti di beneficenza, quindi guadagnano anche sui vaccini. Però immaginare un complotto mondiale che coinvolge tutti i medici dell'universo, che coinvolge Medici Senza Frontiere, Emergency, l'Unicef, per difendere l'1,4% della spesa, io lo trovo piuttosto irrealistico. Certo. E questi sono numeri. Un'ultimissima cosa che le voglio chiedere. È vero però che in paesi come la Francia o la Germania l'obbligatorietà dei vaccini è diminuita nel corso degli anni più di quello che è accaduto in Italia? In molti paesi non esiste l'obbligatorietà. Ciononostante, però, in alcuni di questi paesi c'è una copertura altissima. Cioè non è obbligatorio, però la gente lo sa e lo fa comunque. Certo, il vaccino contro il meningococco C di cui l'ho parlato in Inghilterra non era obbligatorio, però l'hanno fatto tutti. E, è vero che in alcuni paesi non è obbligatorio, però magari non ti accettano a scuola, oppure il medico non ti cura. Quindi diciamo che la questione dell'obbligatorietà è una questione politica, dove ognuno può avere la sua opinione. Quindi io personalmente ritengo che sia giusto, perché lo Stato deve difendere i più deboli. E i bambini che non si possono vaccinare, per esempio, che hanno una leucemia, che se prendono il morbillo da uno non vaccinato muoiono, come è successo qui in Lombardia qualche tempo fa, non va bene. Io penso che debbano essere protetti, però questa è una mia opinione. Altri colleghi la pensano diversamente, troverà nessuno che la pensa diversamente sull'efficacia, sulla sicurezza. Un'ultima cosa che le voglio chiedere, sempre un ascoltatore che scrive, ma questa è una domanda che faccio a lei, ma dovrei fare forse anche a me stesso e a tutti i giornalisti. Dice: perché se la meningite ha la stessa pressione degli anni precedenti, come diceva lei, perché la stampa e gli altri mezzi di informazione gli stanno dedicando tutto questo spazio? Questo io non lo so, deve rispondere lei, ecco. Se no faccio io quello che parla. Perché i giornalisti fanno la panna montata, è vero che le notizie vanno di moda, cioè l'anno in cui va di moda parlare della meningite, l'anno in cui va di moda parlare del femminicidio, non lo so perché è così, non c'è un complotto, non credo che ci sia un complotto, non mi risulta, però è vero che qui forse i giornalisti dovremmo fare un po' autocritica, no? Perché... Beh sì, e purtroppo anche noi medici forse dovremmo fare autocritica, perché alcuni di quelli che dicono quelle sciocchezze sui vaccini sono dei medici, in un altro paese sarebbero stati radiati dall'ordine. e da noi ancora non lo sono. Quindi diciamo che ognuno di noi deve impegnarsi per dare un'informazione corretta. Grazie professor Burioni, a presto, la risentiremo a cuore denari sicuramente, perché lì è il suo, la sua collocazione naturale, a fare formazione scientifica, di servizio eccetera con le colleghe del mattino. Tutto per ora, c'è la borsa 800 24 00 24, se volete commentare quello che ha detto il professor Burioni, siamo qua tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Il Natale Ford continua, ma solo fino al 9 gennaio. In tutti gli showroom Ford ti aspetta un extra bonus fino a 1500 euro in aggiunta alle promozioni in corso. Che aspetti? Il Natale viene una sola volta l'anno, ma con Ford i vantaggi continuano. Scopri di più su Ford.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non ho l'età. Non ho l'età. Per amarti. Non ho l'età. Questa cosa che sentite è il promo di Sanremo 2017. Si vedono dei feti che cantano questa canzone. Se tu vorrai. Sono delle donne incinta che sono in una sala di attesa di qualche cosa e i loro feti cantano. Tutti cantano Sanremo. Ecco, e questo è Carlo Conti che sentenzia alla fine e chiude così il promo. Un promo pubblicato sulla pagina Facebook di uno degli autori di Sanremo, poi credo anche reso pubblico, contestato da alcuni perché è brutto, addirittura si è detto mostruoso. Nel 2017 è normale, forse possiamo tranquillamente ammettere una cosa del genere, oppure è davvero sbagliato secondo voi, fuori luogo, un festival musicale che c'entrano i feti? Qualcuno dice addirittura un'intrusione dell'ex ministro Lorenzin con il suo Fertility Day, un messaggio per la fertilità e per la natalità. Non lo so, 800 24 00 24, abbiamo Roberto che chiama da Roma, buonasera. Ciao, benvenuto. Pronto, buonasera, innanzitutto complimenti. Grazie. Prego, allora, se lei ascolta l'inizio, ecco, esattamente, è la base di Ella Fraser, si intitolava Pray, un video degli anni 90, ed è identico. Sì, se per questo qualcuno ha fatto un paragone anche con i Massive Attack, un pezzo. Massive Attack, esatto, sì. Massive Attack, ma il video era stupendo, favoloso, sì. Ha venduto veramente nel mondo. Adesso la gente si sconvolge dopo... che credo che Massive Attack sia uscito tipo 98-99, credo qualcosa del genere, un pezzo meraviglioso. Ecco Pietro Lacorte che glielo fa sentire, è l'attacco del pezzo, quello è lì. Questo. Tac, tac, tac. Sì, questo. Forse quello che è diverso è il contesto, no? Perché se uno fa un videoclip di una canzone... Lei l'ha visto? Il videoclip, sì, l'ho presente. Tra l'altro lì forse sono immagini anche vere, non taroccate. Invece quelle del promo di Sanremo sono feti un po' umanizzati, no? Okay, io purtroppo non l'ho visto, sì. Quello, quindi io so soltanto, cioè questo qui che sento tutta, cioè questo è Massive Attack, cioè una cosa di un 98. Cioè, a lei è piaciuto, a lei piace. Meraviglioso. Ah, vabbè, vedi, viva le differenze, Roberto. Una buona perfetto. Serata. Grazie. Ciao. Grazie, una buona serata. A presto, ciao Roberto. Allora, andiamo con Antonio da Perugia. Buonasera. Prego. Buonasera, mi sente? No, mi scusi, io ho chiamato perché veramente sono un po' indignato. E sono indignato perché sono un artigiano e sono un po' stanco di sentire del buonismo sull'immigrazione. Premetto che non del voto buonismo Salvini su? Sull'immigrazione. Sì. Sì, io ho chiamato per quanto riguarda l'immigrazione. Sì. Premetto che non voto Salvini, non voto la Meloni, non voto PD, non mi interessa niente di questo. Ma io avevo una bottega nel centro storico di Perugia e ho dovuto chiudere perché nel 2011 c'erano solo spacciatori magrebini. Sicuramente ci saranno anche gli italiani. Ma beh, io sì, beh, io spacciatori italiani ne ho conosciuti parecchi. Sì, tantissimi, però io sto parlando della mia vita, sì. Della mia situazione. Sì. Io tutte le mattine dovevo chiamare la polizia perché loro nascondevano la droga all'interno della porta della mia bottega, il centro storico. Tutte le mattine arrivavo lì, loro mi minacciavano perché cercavano la droga da me. E quindi questo. E adesso mi dà veramente fastidio sentire le persone che dicono che bisogna accogliere. Certo, bisogna accogliere, però in maniera adeguata. questa è una conseguenza di un'immigrazione fatta così. Guardi, bisogna accogliere, forse non lo dice quasi più nessuno, nel senso che è talmente diventato un problema anche concreto per tante persone, o anche solo politico, che divide così tanto, che non credo che nessuno, poi si tratta di immigrazioni sofferte, c'è un sacco di gente che muore in mezzo al mare, quindi nessuno credo che immagini a cuor leggero di affrontare questa questione. Il fatto è che è un flusso, quello della migrazione, che sembra che nessuno sia in grado seriamente di controllare. Siamo seriamente in grado di impedire che dalla Guinea, dalla Nigeria, dalla Siria e da tutti quei paesi partano e arrivano qua. Adesso Minniti fa un viaggio, va a Tripoli a fare degli accordi per evitare questo e anche per favorire i rimpatri. Questa è una strada possibile. Però se io dico qualcosa, subito sono un razzista, sono qualcuno che attacca l'immigrazione, questo non va più bene. Cioè l'immigrazione è un problema, vero? Quindi si deve affrontare, bisogna mettere un freno adesso. Sì, no, perché... vabbè, ho capito. Non so se lei si riferiva anche ad altro. Io ho accusato Salvini e la Meloni per come hanno risposto a Saviano, che aveva fatto quella visione, sogno un sindaco africano nelle città del sud. E avevo usato certe parole. Non so se si riferiva anche a quello. Beh, io penso... No, io penso che Saviano ormai sia un po' lontano dalla realtà. Questa è la mia opinione. Va bene, grazie Antonio, buona serata. Andiamo con Alessandro da Torino, prego. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Niente, io volevo dire solo di Grillo, verso Mentana, che Grillo grida, che salvava la gente sotto la soglia della povertà, ma da quando lui è al governo, cioè da non quando è al lui governo, è in Parlamento, non è al governo, non è neanche in Parlamento. No, sì. Pronto? Sì. Cosa sì? In che senso? Alessandro? No, dicevo, Grillo non è né in Parlamento né al governo al momento. No, però ha promesso di andarci. Lui magari piacerebbe andarci sicuramente al governo, però al momento non è. E quindi cosa voleva dire? Che sta cambiando? Volevo dire, sì. Io mi trovo da 10 anni senza luce, senza gas, senza un cazzo, scusi il termine, e nessuno fa niente. Bisogna pagare forse la bolletta, Alessandro. Che è successo? Come mai? Ho capito. Ma se sono incolpevole, perché comunque lavoro non ce n'è, anche cercando negli angoli più angusti non ce n'è, è inutile che... Cosa? È inutile io cosa? Vado cercando. Sì, non ho capito molto con chi ce l'hai in qualche modo, o qual è il bersaglio del tuo intervento, se il tuo intervento ha un bersaglio. Oltre a parlare di te, Alessandro. Un tot ai disoccupati, 45, over 40. Tu non hai diritto a nessun sussidio, hai fatto domanda in comune per un sussidio, per un sostegno al reddito? Ho fatto un sacco di domande, sono invalido al 67%, non lo so. Non lo so neanche io. E poi lui va accusando Mentana di dire Mentana, non ha accusato Mentana, ha accusato il giornalismo in generale che ci andrebbe una giuria popolare. Va bene, senti Alessandro, però dimmi una cosa, stai dalla parte di Grillo, sì o no? No, stai dalla parte di chi stai? Dalla parte, non lo so, di nessuno, di te stesso forse. Avevo capito che in qualche modo la proposta, per esempio, reddito di cittadinanza di Grillo potesse in qualche modo sembrarti giusta. Ecco, questo sì, forse. Non lo so, Alessandro, non sei in condizioni, secondo me, di proseguire questa telefonata. Siamo andati avanti anche troppo, forse. Alessandro, magari domani richiama più sereno, più tranquillo. Che hai fatto stasera? Niente. Vabbè, a presto, ciao, buona serata. Giovanni da Roma, vai. Sì, buonasera dottore. Senta, dopo le argomentazioni che ho sentito in questi ultimi momenti, tra cui l'ultima, mi sembra molto banale il mio intervento, però mi attengo a quanto detto dal suo collaboratore e voglio parlare, spezzare una lancia per McDonald's. Io sono stufo di questi, ideologie che dicono non bisogna violare i termini molto elevati che usavano. Io ricordo 30 anni fa quando misero McDonald's a Piazza di Spagna, ci fu un corteo di attori, registi, tutta gente Birignao di Capalbio che ideologicamente non volevano McDonald's. Diciamo chiaramente come stanno le cose: McDonald's offre un prodotto dignitoso con estrema pulizia, a prezzi contenuti, lasciamolo scegliere al cittadino, all'utente. Non possiamo mettere, anche perché questi signori, tra cui ho sentito c'è anche un certo Asso Rosa, no? Io sono perfettamente d'accordo con lei. L'unica cosa che io mi chiedo è questa: possibile che le città del mondo tutte si assomiglino tutte ormai, perché ci sono i grandi marchi di moda, McDonald's, altri marchi simili, e quindi non si gira e dice: ma dove sono? A Roma o sono a New York o sono a Bangalore? Le dico una cosa, dottore, io adesso so che non possiamo fare pubblicità, però lo dico perché è un esempio di imprenditoria italiana. Ad esempio, Rana, il pastificio Rana, sta mettendo su dei locali dove fanno la pasta. È bellissimo. Cioè, ci fosse stato un Rana che McDonald's, io l'avrei preferito sicuramente. Lei dice: ma c'è il mercato, e così c'è andiamo. Il mercato, ma poi soprattutto questa ideologia contro McDonald's. Ma dico, questi signori che parlano, offrono i panini, le trattorie, ma dico, ma siete mai andati voi nei servizi igienici di queste trattorie, di questi paninari? Allora, spesso fanno dire, schifo. E poi comunque diciamolo, il McDonald's, anche se non ti piace, anche se lo puoi considerare una degradazione, è un prezzo da pagare. Abiti in un quartiere meraviglioso, a Borgo Pio, sei a due passi al Vaticano, e allora ti becchi il McDonald's, che è una cosa turistica, non c'è niente da fare, non è che di lì si scappa. Grazie Giovanni, buona serata. Allora, adesso una notizia un po' vintage, introdotta con questi 99 posse, la paranza di San Precario. Sì, stavo cercando il titolo della canzone. 99 posse, eccoli qua, sentiamoli. Il rosario del precario. Allora, è una proposta di legge, forse sta diventando, arriva dall'Emilia Romagna, un'utopia che ritorna, riguarda il mondo del lavoro. Un'utopia che ritorna forse perché continua sempre ad avere un suo fascino, l'idea di lavorare meno, lavorare tutti. E allora è qua con noi Pier Giovanni Alleva, buonasera. Buonasera a lei. Consigliere regionale dell'Emilia Romagna, credo di Sinistra e Libertà, giusto? Sì, era l'altra. Sì, non di Sinistra e Libertà, a dire la verità, l'altra Emilia Romagna che è stata l'altra Emilia Romagna per Tsipras. Sì, insomma, è un po' quel mondo lì, è il mondo della sinistra. Sì, il mondo dell'estrema sinistra. Vabbè. Allora, questa è la proposta, e che in realtà le chiedo di spiegarci, no? Perché ogni tanto ritorna questa cosa, però se adesso in Emilia Romagna, dove comunque c'è un governo di centrosinistra, c'è il PD, è stato appena varato un reddito, un piccolo sussidio per chi non ha un lavoro, sostegno. Alcune migliaia, insomma, di persone, non tantissimo, però insomma si sta cercando di fare qualche cosa, arriva lei con questa proposta. Come funzionerebbe? Ma tanto la proposta ovviamente non parte da zero, parte da un istituto che esiste, sono i contratti di solidarietà espansivi, visti già da molti anni, rifinanziati e riregolamentati anche dal Jobart. Ecco, spieghiamo un attimo, perché è materia che la gente non mastica. Contratto di solidarietà espansiva, dice sì? Sì, che è il gemello, ma con un'altra funzione, del contratto di solidarietà difensivo, ben conosciuto. Quando una fabbrica è in crisi si riduce spesso l'orario di tutti, per far lavorare tutti, per non perdere posti di lavoro. Per non perdere lavoro, e la metà in quel caso della perdita viene ripianata dalla cassa integrazione. Quindi diciamo, per semplificare, lo Stato mette tramite gli appositi istituti quella differenza, diciamo, per colmare la perdita di stipendio, non tutta ma una parte, si lavora meno, si perde un pochino di stipendio, non tutto quello che si perderebbe, però si consente di non perdere posti di lavoro, e questo accade, è accaduto anche tante aziende. È un ammortizzatore sociale. sociale molto. Lei dice questo meccanismo potrebbe espansivo servirebbe alla stessa cosa, ma ridurre l'orario, diciamo, come maggior spazio di vita dei lavoratori, sì, da 5 a 4 giornate, e nello stesso tempo creare posto, diciamo, per nuovi ogni posti 4 di lavoro. Per il problema è che i contratti di solidarietà espansivi non sono stati sufficientemente normati, perché manca quello, sì, che manca è la compensazione a coloro che, ecco, accettassero, perché devono accettarlo volontariamente naturalmente, di ridurre l'orario. Perché altrimenti, poi, mettiamola giù chiara, se io rinuncio a un giorno su 5, dovrei rinunciare a un quinto dello stipendio, è molto, è un, sì, sacrificio. Lei dice, io invece con questa solidarietà espansiva ci faccio mettere una quota dall'istituto pubblico, dallo Stato, a quel punto la perdita dare... è minore, è compensata. Ecco, ma io non chiedevo qui un intervento dello Stato, perché essendo consigliere regionale della regione, cerchiamo di fare un, a livello regionale, che si faccia a livello regionale, anche se ovviamente un intervento statale sarebbe quanto mai opportuno, se un altro per parificare con quelli di Pensi. Ecco, però lei so che c'è anche un po' i numeri di questa cosa, adesso glieli faccio dire, sono numeri interessanti, quanti posti si potrebbero creare. Però, questo, una domanda, perché uno dovrebbe comunque, uno che ha già un lavoro, aderire a questa cosa che vuol dire una perdita di potere acquisto, di stipendio, cioè diminuire il proprio stipendio, per avere, lei ha detto, più tempo di vita? Beh, guardi, io sono da 40, più di 40 anni anche un avvocato del lavoro, e ho la fila di fronte a me di persone, donne soprattutto, che mi chiedono se c'è il diritto di avere un part-time, di ridurre almeno di una giornata il è vero che il part-time ha un certo appeal nelle aziende. La, sì, risposta è negativa, perché purtroppo, a meno che tu non abbia, speriamo di no, una brutta malattia, oppure devi fare un esame, il diritto a un part-time, la riduzione dell'orario, non c'è, va bene? Allora, da questo punto di vista, io dico, molti preferirebbero passare le 5 a 4 giornate, sì, anche senza compensazione. Perfetto. Però non questo è possibile. Una compensazione è bene opportuno che ci, esatto, sia. Però magari allora potesse essere completa. Ecco, l'altra obiezione però mi scusi. Però professor, già per esempio dire, sì, dalle 38 ore medie attuali, se noi passiamo le 31 e mezza e ne paghiamo però 35 o 36, beh, insomma, già c'è un grosso appeal, avere una giornata libera, certo, una settimana e questo di l'abbiamo chiarito, pagate e questo 36. L'abbiamo chiarito. Però l'altra obiezione è le aziende. Alle aziende questa cosa costerebbe di più, perché non viene fatto? Perché spesso per le aziende non conviene. Questo è proprio un punto. Le aziende ci guadagnerebbero solo perché? Cosa perché naturalmente il monte ore lavorate, quindi da pagare, pesa lo stesso. Si assumono 9 persone, due di un quinto, ma si riduce un quinto dell'orario degli altri. In più, la legge già oggi, sì, prevede per i nuovi assunti la defiscalizzazione completa per 3 anni, e inoltre prevede già oggi la legge un incentivo del 15, poi 10, poi 5 per ogni lavoratore assunto. Quindi l'azienda non ci rimette niente, ci guadagna soltanto però personale nuovo, e non è quello secondo me il problema. Il problema è sul lato dei lavoratori, i quali possono dire, e probabilmente direbbero, perché può scattare un riflesso egoistico, nonostante si parli di solidarietà, di dire vabbè, ma io tutto sommato, anche per un giorno in più, non voglio prendere nemmeno un soldo in meno. Ora qui c'è da dire due cose: avere un giorno in più libero è una gran, comunque, però scusi, resterebbe su base volontaria, però, questa cosa, no? Sempre su base e quindi, volontaria. Guardi, le faccio un caso che taglia la testa al toro. Essere, le faccio un caso. Le faccio un esempio. Alla Natuzzi in provincia di Bari, azienda Natuzzi in provincia di Bari, hanno ricreato, dopo un accordo sindacale, circa 200 posti di lavoro che erano stati persi. Ebbene, quelli che avevano perso il posto di lavoro, che avevano avuto un sussidio, una buona uscita ampia, adesso non vogliono rientrare a lavorare, preferiscono tenersi il sussidio. Quindi è vero quello che dice. cioè ci sono persone che magari preferiscono guadagnare un po' meno, però avere più tempo per loro fare il part time o addirittura stare a casa. Quindi questo sta nella realtà dei fatti, questo è possibile, non diciamo, per tutti ma per alcuni. Però, il problema fondamentale è questo, dove troviamo i soldi per dare la compensazione integrale o comunque quasi integrale, almeno il 50%, a coloro che accettano di ridurre l'orario. Questo è il problema. Quanto costerebbe? Veniamo un po' ai numeri. Quanto costerebbe? Costerebbe all'incirca 400 euro al lavoratore. E in tutta l'Emilia Romagna, facendo una previsione che lei ha fatto? Dipende quanti se ne fanno di questi contratti. Teniamo conto che ci sono 2 milioni di disoccupati, occupati in Emilia Romagna e 169 mila disoccupati. Se uno volesse porsi il problema di recuperare, sarebbe già una cosa bellissima, 100.000 posti di lavoro, occorrono altri che 400.000 lavoratori accettino di ridurre l'orario. E questo quanto costerebbe? Questo costerebbe evidentemente, il prezzo è questo per 400 mensili. 400 mensili per 400.000? Quanto fa? Vogliamo fare il calcolo, redazione, 400 euro per 400.000. Vediamo quanti... No, 400 euro per 400.000. Esatto. Ma non è solo a base di questo, non è che bisogna tirare fuori questi quanto soldi. Quanto fa? Avete fatto il calcolo? No, adesso la redazione mi fa il calcolo, 400.000 per 400 euro. Vada avanti. Poi... Ma non deve pensare che ci sia, che ci debba essere una cassa alla quale tirare fuori 160 milioni, capito? Non è questo il concetto. Il concetto è un altro. Il concetto è... Ecco, sono 160 milioni, esatto. Beh, però vanno tirati fuori, perché senza questo... Io lo spiego. No, ho capito, però dobbiamo anche andare al punto, professore. Mettiamoci d'accordo su questa cosa. Sì, no, ma qui dirigo io, guardi, non dirige lei. Le domande le faccio io, lei dà le risposte se crede. Come in tribunale. Funziona così. No, non è in tribunale, cerco di fare le domande per avere le risposte. Prego. Allora, devo spiegare qual è il meccanismo. Principalmente... Si tratta di capire di questo. Noi oggi abbiamo un istituto che sta crescendo, che si chiama il welfare aziendale, per cui in sostanza una parte dei compensi del lavoratore vengono pagati con servizi e con beni. Bene? Mm-hmm. La caratteristica di questi servizi e di questi beni è che hanno per i lavoratori un certo valore. Sì. Per i datori di lavoro che li comprano all'ingrosso, e se lo fanno attraverso delle associazioni datoriali, quanto mai all'ingrosso, all'ingrossissimo, come devo dire, costano molto di meno. Ecco da dove si può creare la leva per avere per trovare lo spazio per questa compensazione. Cioè al lavoratore che accetta di ridurre il suo orario, in realtà non ha una perdita di potere d'acquisto, perché quei beni, quel paniere di beni, gli viene comunque dato e garantito. Tramite benefit, diciamo così. Benefit. Tramite benefit, per lui hanno un valore, ma per il datore di lavoro è un costo molto più piccolo. Mi dica ancora un paio di cose, scusi. Tutto è una questione di scala. Mi dica ancora un paio di cose. Quando la presenterà questa proposta di legge? Non appena avrò una simulazione fatta, perché prima di presentare una proposta di legge ed evitare tante polemiche, ho chiesto a una grande organizzazione commerciale di farmi una simulazione e una proposta, non che debba averla lei, no? Ma per dire, allora, noi, se il lavoratore, il quale accetta di ridurre l'orario di lavoro, accetta anche che 600 euro del suo salario sono pagati in questa maniera, noi facciamo uno sconto, facciamo conto del 40%, viene fuori del 30%, ecco che vengono fuori 200-250 euro. Benissimo. Che sono là. Ok, ci risentiamo quando la presenta questa proposta di legge, perché è interessante. Le faccio un'altra domanda. La metà di questo mese. Va bene, le faccio un'altra domanda. Sì, va bene. Bene? Benissimo, l'ultima domanda è questa. Allora, la questione dei voucher, perché tra i promotori del referendum contro il Jobs Act e sulla questione dei voucher c'è anche la CGIL. Ma non c'è dubbio. Però oggi si è scoperto che proprio la CGIL dell'Emilia Romagna usa i voucher per pagare alcuni collaboratori dello SPI-CGIL per stessa ammissione dei leader sindacali. Allora, come la mettiamo? I voucher a qualcosa sono serviti? per questo ci può essere, quante contraddizioni esistono di questo genere, non lo so, non lo questa, sicuramente lo è. Questa sicuramente lo è. Diciamo una cosa, i voucher sicuramente sono diciamo la negazione del diritto del lavoro, la negazione ma se però prima era lavoro nero, mi scusi, perché certo, questo anche che, e se le usa il sindacato evidentemente qualcosa sono servito. La cosa fondamentale mi permetta è che i voucher non vengono utilizzati nella produzione dalle imprese, finché sono utilizzate dai privati per pagare la babysitter o per altre cose, la loro incidenza per quelli che effettivamente sono lavoretti, la loro incidenza sarebbe molto relativa, anzi io non avrei neanche molto il contrario. Però attenzione, ma infatti guardi, siccome si sta andando verso una correzione, almeno il governo ha annunciato una correzione che potrebbe anche tra l'altro vanificare poi il ricorso al referendum, su cui pure oggi c'è stata una pronunzia dell'Avvocatura di Stato che nel quesito che l'ho definito manipolatorio, ma qui si va sulla cronaca, ne parleremo più avanti. Professore, io la ringrazio, la saluto perché siamo in chiusura, grazie a Leva. Questa era la proposta che arriva dall'Emilia Romagna ed è il lavorare meno, lavorare tutti, di antichissima memoria, proposta di legge, chissà, fra un po' sarà depositata. Nicola, la provincia di Caserta, in 20 secondi per chiudere, vai. No, in 20 secondi molto semplicemente, ritorno sullo spot di Sanremo. Ora, al di là delle facili strumentalizzazioni a cui tutti possiamo attingere, io ritengo che questo sia un'evidenza scientifica. Il feto comunica con la madre, ascolta la musica, è anche indispensabile. Io la facevo ascoltare le canzoni di Bob Marley a mia figlia quando era nella pancia della mamma, è vero, però il promo è un'altra cosa. Grazie, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, ciao GR.